del suo. E così va via chissà che rosoni, porca mia, sempre apparecchiature, perché non me ne frega niente, sono di quelle cose che ti usi così, giusto, va, per cucciarli, quello dove mettevi i tre dischi, no? Quello lì, lo metti, cazzo, e prima lo giambacchi invece da bue è rimasto anni chiudato, lo provo ad attimino, sta, sta, gira, gira, gira, e si vede magari ribare più a zero, detto, ma ciao, questa voce ha proprio pigliato la braduccia, sia uno che con l'altro. Ma è quella apparecchiature elettriche quando non le usi purtroppo è così. Capa, ma lui le ripara queste cose qua. Se uno si inchiude già dentro il sistema, già è tranquillo, una persona onesta anche. Io non guardo, ma come ci metto? Io ho un impianto, uno di quelli compatti, e toccami. No, ho regalato dell'AIFA, ma dopo Guzzocca, ma tocca un bel frido. Praticamente c'ha 5 CD ed è difettoso. Un giorno mi sono messo a smontare, ho detto ma non giocare, ma è fattibile troppo tempo. Non è come un computer, il tempo sì, lo perdi. Riesci a farlo, ci lavori meglio, invece con queste cose qua. Ti libica un pezzo, sei fottito. Sì, no, guarda, io sinceramente ti devo dire una cosa, magari se mi ci metto, labbro e se mi ci metto, sono così così chiamato, però il discorso è sempre quello lì, non c'è il tempo, non ce la fai, tocca a brillo, la galla in ghibi, non è un ricambio, non è una molletta, non è un fermino, non è un saldatore buono, non è... quindi io una cosa l'aggio sempre dita, lascia fare ognuno il suo, punto, basta, finito. Sopra chiso non si discute, quindi mi accontento più dallo, giustamente ripeto, una persona basta che sia onesta, che non sia qua, perché mi è successo più volte di riparare delle cose, anche col telefono, non vi dico, se vi porto un racconto a Baida o Ioi, che è un altro bogu e non si sa pure come tanto a finire la storia, finisce anche male, perché a prendere per il culo c'è sempre tempo. Mi hanno rimandato questa cosa qua, me l'hanno rimandata per un mese e mezzo, domani, dopodomani, in arrivo, c'era il postino invece non era vero, l'ho consegnato stasera e non era vero, eccetera, eccetera. Parliamo di assistenze, e col camice bianco e tutto qua, una cosa vergognosa, alla fine poi ci arrivi, no, perché perdi la pazienza e la cosa da voi si buoni burumari, non è, io non mi pongo il problema, non timo di pulirmi in mezzo ai impazzici, mi fai pigliare la pazienza, poi è normale che così. Pazienza andà giù, mi busso da sacchi a tutti, però dai, non si prendono per il culo le persone, dimmi le cose come stanno, tu mi devi dire le cose come stanno, mi dici quanto è il tuo, non c'è problema, ce la beviamo qui, ma non per gli appalgura nessuno, invece in gazza va tutti gli altri, sono tutti i fuibi, favoraggi, cose, va un'altra, e il altro burro gira, qui alla fine, il telefono non so cosa c'aveva, la casa madre, non so, non gli aveva mandato una scheda, una cosa, sì, ho capito, ma se il telefono è nuovo, ve l'ho portato qua dopo una settimana, me lo cambi, basta, cosa devi pensare così? Cioè questa cosa mi serve, dici no, ma beh, no, l'hai compreso, allora no, te lo tieni, te lo ripari, te lo vendi e fanno chi lo vuoi, ti do la differenza e me ne dai un altro. Alla fine quella cosa si è messa male, e così poi è successo, perché io ho detto qua, senza il telefono non è vale, ho mi dato il telefono, o prepara ad aprire una pagina di giornale che ti piace un casino che la mi deve fare, cioè ma che se ne avremo di quella paura ieri. E adesso siccome non ci voglio cadere un errore, io chiedo sempre prima, se c'è qualcuno, vado all'aeroporto, giustamente mi dice quello che o me lo dice prima, poi se mi conviene, se non mi conviene lo prendo, lo butto e lo compro nuovo, non è che ci dipende più di che tu voce, assolutamente no. No, vai tranquillo, quello che ti stiamo dicendo non è tranquillo, non è di chi ti... Te lo dici subito. Sì, buono anzio. Che così se capito magari ci provo a passare e glielo chiedo così, poi se invece portaglio glielo porto. No, quello è Bagliano, a Rosandi e via Napoli. Sì. La cantina è nel rubetto. Un deve ragazzina di rovino, 5 in Viale Forno, dice, da voi. Quindi non ho mai come che vi... cioè, una volta compreso, hai. Non c'è da sbagliare. Ma c'è un'insegna, qualcosa? Se sei chiaro, magari me lo dicono. Allora, c'è un'insegna. Allora, tu come ti arrivi in via Napoli? Per scritto Vigno, per scritto Iri, in via Torres, in quel pezzettino lì giri, ti acciappi proprio di fronte, ti acciappi, compreso, per un pulsare vizzino e per un laboratorio suyo. Magari se chiedo lì poi me lo diranno. Sì, che Gavino si chiama. Che vuoi sapere da buono in radio, entrando in occhio? Sì, anche da noi, guarda, la verità, non li fa più nessuno, no? Non so cosa cavolo si è pigliato un po' a tutti, e prima c'era qualcuno che si dedicava a fare queste cose qua, e adesso anche gli autorari e cose, non so, non lo fa più nessuno. Giustamente, come te lo telefonino, io so che tu barri una volta. Che non si vi lampa il giro, no, non conviene a tagli appresso più di tanto, rubiglio lo giambi. D'altronde che si cose sono fatti baghissimo, come le macchine, come te tutto, come gli elettrodomestici, delle volte conviene più cambiarlo che stare lì a riparare, perché poi magari ne ripari una e te ne esce un'altra, fai due conti e ti c'è la lavatrice nuova o l'obbligo che lui è, insomma. Ciao, così è. Pure la lavatrice proprio non conviene più, a meno che non sai che problema va già, tipo che quando intendi che non gira il motore ti assicureggi e che per esempio le spazzole, che va il motore da papà le spazzole, tipo lo drabbano, compreso, lo drabbano la molezza, ti cambi quelle e parte. Anche se non si fa altri cosi, abbiamo fatto una voce alla lavatrice nostra, ci intendiamo che voleva, ci intendiamo il coso che andava, ha detto che c'è un motore, mi hanno bugato, l'hanno cercato di girare cose e girava, quindi magari toccava, capito, la spazzola, e la giamba dughissi ed è passato davvero un motore. L'abbiamo già mandato, ma cosa vanno subito a condensatore, il motore, prima a condensatore, è andato a vedere, era ovviamente che non si è passato una subito, non siamo, stavamo lampada. Sì, no, giusto, purtroppo è così, ma io penso che queste cose siano fatte di proposito, non è una cosa fatta così a caso, loro lo fanno perché sanno che deve durare tot e poi è da buttare, giustamente poi ci sono delle cose che le puoi riparare e altre no, primavera gli motori con condensatore, no, di nuovo non lo so come metti solo, la verità è non lo so. So che va via un motore in giro attaccato allo gestello, però non lo so, no, non mi è mai capitato di vederli. Comunque si chiamano i carboncini a tu. Il carboncino, insomma. Beh, presente la moletta, il dramma, così è. Sono fatti così, va. Sì. A Maria, tre volte sai fasciare, tre volte la già consata io. Sempre i carboncini, ma fa un motore completo. Cosa a volte? Una volta si blocca lì, tu vuoi chiamare un motore completo con le spazzole nuove. Davvero, ma cos'è quel motore che è attaccato al cestello? È il motore che fa girare il cestello, certo, giù. Avevo preso un autopart fatto da un amico, e tu mi serve un pezzo, ma era staccato, l'ho fatti vedere, però purtroppo ho bisogno di vedere le camere, non si può più toccare nulla. E adesso ho smontato un motore, abbastanza nuovo, sempre di quel modello lì. E poi abbiamo ordinato Marina ha ordinato le spazzole, gliel'ho già piazzate in quel motore. Allora, appena si blocca lì, che mi deve un giambo, dello tutto. E va, penso che il motore non si greba più, cioè le spazzole vanno a consumarsi, croc. Io penso che si rovini altro, cuscinetti e quant'altro. No, non mi è mai capitato di vederlo, no, assolutamente. Non so, manco di cosa so che va bene. I motori vecchi sì, e quelli nuovi no. Sì. È così. Purtroppo è così. Vabbè, poi di 3 notte io avevo riparato la scheda. passavate ce l'hanno andato. Hanno staccato la scheda, c'era praticamente un integrato scoppiato e più una... cos'era? Un condensatore, una resistenza. Da buia va che si lavatrici sono tutti canti elettronici, cavolo, ed è un casino. Prima si facevano di manco, invece va e tutto quanto a schede. E si conferma, tutta a schede. E si danno dei pugni di mano, già racconti. No, è pochissimo tanto. E che parlo come delicatezza, capito? Cioè la lavatrice di prima durava, se noi andiamo a parlare con la gente, non ti diranno, ah la lavatrice mia mi ha fatto 15 anni, chi te l'ha fatto 20 anni, chi te l'ha 18 anni, eccetera eccetera, ma non durano più adesso questo tempo qua, perché la scheda, per quanto può essere pratica, ma è sempre, secondo me, è molto più delicata. Sì, tutti da voi a bordare la macchina, alla fine, a meno che non prendi quelle di qualità, tipo le Samsung, che ti devono durare 10 anni, dite, c'è la garanzia, poi bisogna vedere se si barra prima. Allora, sono un grosso lavatrice in cucina di 7-800 euro, 900 euro, la miele, cazzo, lavatrice da 1000 euro, ma chi si sono lavatrici robuste davvero, bel hombre? E non ha detto, no, tu. Non è detto, noi abbiamo la Indesit, l'ho pagata quasi 400 euro con 5 anni di garanzia. Ma le miele sono fatte diversamente lui. Magari è roba più professionale, avranno altri componenti un po' migliori, però io dovrò sempre in ghivi. Purtroppo oggi l'elettronica la fa da padrone, può essere fusionato momenti, no, giustamente se i componenti sono di qualità durano di più, però la musica è sempre chita. Ecco, io vanno origini crimine, ma ci ho comparato a Kai, l'avremmo più di un anno e sempre andando da bue, ha un pagato a bogo. È sempre funzionante. Sì, no, paghi su 9 euro, molte volte vai a comprare una sottomarca e magari è a fusuna, secondo me, e magari è più riuscita di una di qualità. Allora, c'è quella che avevo comprato a casa di mio padre, che mi ha già 4 anni, è sempre funzionante, è marca Akai. Da me ne ho pigliato una matessi macca in onghi, non ho giù pagato assai, no? Ma un anno è sempre funzionante, niente è meno elettronica questa addirittura. Cosa significa? Ah, andava bene. Se che ti vuole lampazzi di là, ui. Lascia perdere. Sì, è bello, sì. E quindi lui, tu ti arrangi a sistemare il computer? Sì. Già, qualcosa già ci riesco a farlo ancora. Immagino che mi rompo le palle, non fosse più nulla. Non vale più la pena, no? Chi male gli chiedi, adesso 20-30 euro, ti dici che è troppo. E così. Sì, comunque sì, io me lo riparo da me, perlomeno io ho avuto problemi, lo stesso da poco, qualche mese fa, l'ho smontato, ho visto un po' l'andazzo, che non mi stava andando bene, ho giocato una volta pulita, niente, gli ho cambiato la pasta di raffreddamento, praticamente si bloccava. No, comunque è già una cosa buona, vedi, sapere arrangiarsi su queste cose qua è un bel, non è a tutti. Poi c'è quello più bravo che magari cerchi un po', insomma, gli chiedi un aiutino per vedere un po' la situation. Però già, diciamo, nel mio piccolo già mi do da fare. Luaco. E mi devo dire, se non vuoi fare un travaglio così, se no ciao, fatti salutare, arrivederci. Non bisogna dare retta a nessuno. Io dico che la persona deve essere solo corretta. Tu me la racconto. detto quanto era giocato la magata e basta, ci ho buttato molto, non ha detto manco mezza baraura. Perché è così che funziona, ma so farlo alla gente in doga, alla gente che non vuole pagare, se non bene non ti faccio nulla. Sì, ma sai cos'è, Anto? Che la gente deve a spendere. È così, prima si risputtana, adesso la manca, capito? Ma dopo dice non vanno di là. Addirittura l'ha giocato due da Bobo, era a gennaio mi pare, o a dicembre, se non mi ricordo. Uno l'ha giocato gratis, e per mio figlio, vabbè. Poi me l'ha regalato un altro, io ho sistemato, quello tu qui non è di là, ma brucia tu. Ma infatti, basta niente così, basta delle di là. Già una prossima volta, Marco si mi chiama, ma con un rifondo, capito? E poi già trovi che a quattro occhi, Anto. Non è giusto, Chiso, tu lo travaglio, lo va. Però ha aggiunto lui, no, tu travaglio l'hai fatto e ti devo dare di là, punto, finito il discorso, non v'è scritto, non v'è storia, perché uno deve essere onesto nella vita, tu mi hai fatto un travaglio, chi ce lo do io, boh, finito, no, non deve essere manco mezza baraura, gente così, no, se tutto l'aveva detto lì di là, non so, mi hai dato il computer. Vabbè, quanto mai tu dimmi per mio figlio, lo devo usare, quella. Va bene, però questo lo sto facendo gratis, poi me ne ha regalato un altro, che tra l'altro gli ho cambiato il pannello LCD, perché era danneggiato il suo. Praticamente da due ne ho fatto uno, guarda. Ho giumato 30 euro, giusto, perché era un amico, adesso lui si va bruciato. Ma non li vedi più però. No, ma anche no. L'aveva detto, vuoi fare il computer, aveva detto. Ma regga, i 30 euro che mi devi, e poi vediamo che cosa c'è, mi porti anche quelli lì. E se no, te li vuoi pure andare dai nonghi. Ma infatti, già non, tranquillo che non vi vai. Brutto infame. Beh, certo che è così. E adesso invece come il computer di quei portatili, quelli buoni, chi sono? Ma vabbè, ci sono, vabbè, questo cosa era, faccio un piccolo manco. Allora, il mio è vecchiotto, questo dovrebbe essere, guarda, vediamo un po'. Questo è un Pentium R Dual Core CPU 24004. Vabbè, c'è 4 GB di RAM, 500 di hard disk, SSD. È un PC buono, sono gli ottimo, c'è l'i9, che quello è micidiale, cazzo, costa 1800 euro questo computer. Però vai un computer sotto il culo, Cioè è un missile quel computer, poi un SSD da 1 TB, ma anche un i7 non è male. Per esempio mio Antonio si è comprato un i5 di processore, anche quello è buono. E vanno bene quelli? Alla grande. Sì, no, pompa forte. Il mio è un Acer. Però c'è questo Lenovo che stanno pubblicizzando molto, dice che è molto buono, mi hanno detto. E costa un bel quello, Antonio? Dipende quanto vuoi potente, da 500 euro, ma se c'è da 700 euro ce n'è di meno, da 299 l'ho visto, dipende cosa vuoi. No, dico una via di mezzo, no, cioè giustamente non una cosa proprio per la terra, una cosa da sta a galla. Tu quanto me ne aspetti? 500 euro? Che cosa? Uno buono, una via di mezzo. Allora tu pensa, quello che c'ha Marina, che era del fratello, la buonanima, l'aveva pagato 6,50, 1,5. Quindi dai, così già va anche bene, però andà oltre, se poi non lo usi, non si va nulla. E come ti comparassi una Ferrari, banda a piazza a pigliarsi un caffè. Beh, effetti, gusti. Vabbè, quei PC lì li usa, si usa per, insomma, uno che lavora, vuole una cosa veloce, non vi sa di ora caricando, capito? E così. Vabbè, ci vuoi fare, purtroppo. E gusti, costi chiamano troppo, però hai un ottimo computer. Ma un computer del genere di dura buruga, che hanno meno, non è che lo giambi da oggi in domani, se è buono. Sì, Anto, questo ci mancherebbe, sono d'accordo, questo. quando lo compri spendi qualcosa in più e già va bene, tanto è inutile pini di macchia da buia di casse per Natale. Adesso tu vedi, hai preso questo Archer, hai 2-3 anni di vita, però vabbè, non so se, se questo qua, vabbè, un tecnico l'ha pulito e fatto, non lo so, di solito si smonta, si pulisce la ventola, dalla polvere, si cambia la passata del CPU, non so se l'ha fatto questa tu. Dimmi una cosa, ma ce l'ha anche il lettore DVD? Sì, c'è tutto. Comunque i nuovi computer non ce l'hanno, eh? Non lo so. E vabbè, interessante che funziona. Sì, io, Antonio, ne ho visto uno su internet, su eBay, un i9, quasi 2000 euro costa, 1000 e, quasi 2000 euro costa, ma è bello, quello sì, una scheda video con le contrapalle, cazzo, 16, adesso se non mi ricordo male o è 16 o è 32 giga di RAM, e poi l'hard disk da 1 terabyte, è un bello, una bella bestia. Ma magari così lo usi più, dai, più per lavoro, una cosa molto professionale, io parlo una cosa così, dai, giusto, va a passarti l'ora, quello che ho visto ieri, quanti ieri, 299 euro, che non è male, nuovo. Allora, amico, questo qua è, allora, questo è notebook portatile HP Pavilion, DV6 Gaming, i7. Ah, questa è seconda mano, vedi? Non l'avevo visto questo qua. Cazzo, tu, 199 euro, 210 euro, un i7. Però come giù peso, vuol dire 9 e 5, boh. Vabbè, registro in 9, 1700 euro costa. Arce Nitro Core in 9, cazzo è una bestia. 64 giga di RAM, già. Cazzo. 1 terabyte di SSD. Vabbè, un SSD 2 terabyte HD. Cioè, c'ha 3000 gigabyte di memoria. Due hard disk, uno da 2000 e l'altro da 1000 terabyte, quello SSD, quello che poi c'è installato il sistema operativo, diciamo. Porca troia, 1700 euro costa. Tastiera illuminata, vedare in due. Quello è bello, sì. Cavolo, 1700 euro, insomma, dove c'è già una cosa come ti si tocca. E il 9 è l'ultimo uscito, poi c'è questo qua, costa 2250, notebook il 9, SSD 1 terabyte, RAM 16 giga, 13x4, un po' di cosa, insomma, 2100, 3000 euro, cazzo, quindi so, tu poi sei con la rima, mi hanno portato tramite uno, vabbè, questo computer è fisso, Anto, raffreddamento a liquido. Quel PC usava pagato intorno ai 4000 euro, ma PC, cazzo, quello è veramente quel contrappalle, bello, tutto illuminato, e non ha ventola in chimica, non tiene nulla, che è tutto a raffreddamento a liquido, beh, da reddito, E cosa va via lui? Poi lo caricavo al sistema operativo, stavo cercando un po' la situation, siccome si è messo a smontarlo, capito, si è messo a smontarlo e niente, non so dove ha messo le mani, non so cosa che si toccano quelle, cazzo era difficile di bambè, che poi c'è che pallone, era un ragazzino, mi si è messo un po' lì a toccare, ma comunque niente, mi ha mandato un messaggio che si era ripreso. Dico il liquido, ma glielo devi mettere o andava con un liquido fisso? Ah, fai davanti al liquido Antu, ma penso che si consumi così, penso che abbiamo un livello, capito? Ma glielo devi mettere tu, come funziona? Ma sicuramente non lo so, è la prima volta che avete in mano e non mi sono, come si dice, non mi sono informato, dai. Non mi sono informato, però vabbè, ci posso andare su YouTube e vedere un po' come si dice, come funziona, ecco, guarda, ce n'è uno, se ti interessa Antonè, Clevo, c'è scritto qua, per 170 km/GQHD, 165 Hz, core i9, C'ha la RAM 100, no aspetta, il rettiscale, RAM 128 giga, SSD 3 terabyte, sono a Tuburca, 6.000 euro, cazzo mi sono la macchina. Cazzo, vabbè, chi sono affari? Cavolo! Sì, cazzo, ma 128 giga di RAM, cioè stiamo parlando di un computer con... Cazzo, allucinante, 6.000 euro. E io non ce l'avrei mai buttato i 6.000 euro. Ma stiamo scherzando. Esso Maria. No, lascia perdere. Un bel bari blu grosso, è feo, no? Non mi piace. Da te è illuminata. Questa deve essere una bestia, veramente, un bel PC, eh. Sicuramente sono di quelle cose che usi per lavoro e ci mancherebbe altro, magari roba velocissima, roba che immagazzineggia un sacco di roba, e... però siamo sempre in ghiri. Ah, non ce li butterei mai io, cazzoli così. Se lo trovo un affare, un i7 da spendere, boh, cosa ne so, anche 500 euro li spendo. Ma penso che quella roba lì converrà a comprare la nuova lì. No, ma già lo trovo, mi guarda questo qua, 195 euro, 4 giga di DDR3, 128 SSD, deve essere velocissimo anche, 195 euro, però sono di polizia, poi se di latitudine, poi se di, da 12, no, da 12 il monitor, no, me ne posso un cazzo. Infatti. Io da 15 e mezzo, va. Tu da 15 e 6. 15 e 6, è grande. Non lo so cosa chiedere, riprendete un attimo. Eia. Vabbè, per adesso tengo quello, poi quando potrò me lo prendo nuovo. Avanti. Ha detto sì, Ravini, come viene a pigliare l'uovo? Ravini. Prima di prendere una fregatura, magari qualcosa che non vada bene. Come ne pigliare uno così? Allora, lui con il computer sono tratti bene, e lui fa, ma sono tratti male, inizia a fargli prendere il polvere e quant'altro, e vabbè, non tutti lo sappiamo fare. Però chi lo sa fare, se non te ne conto ti dura. Però il PC se lo fai soffrire, poi è normale che poi inizia a fare andare male, come la macchina a me. Sto la macchina aveva un problema, no? Per dire. Vabbè, non è una matessi cosa comunque. E così lui, vabbè, siamo lì. Se lo tratti male, lui va male. Se lo tratti bene ti dura. Per esempio questo qua che ho io, me l'ho regalato forse 10 anni fa. Cioè, lo smotto, lo pulisco e faccio. E se lo lascio andare, quanti volendo, i PW, cantove, ti funziona male. Finché va, poi, se inizia a dare problemi, pide sul rampo. Ho usato Winky a matarmi lo zebetto, ma ne compro un altro. E infatti, che negoziata, poi, fin tanto che va, e poi basta. Vabbè, oltre lo meccanico, uno sa fare un meccanico, sa di puni di mani, no? Non avevi problemi, così comunque te lo mattessi, alla fine così, lo devi dire in conto. E poi tanto, te lo mattessi, visto che tu adesso ormai inizi a usare questo PC, ti conviene tenerlo sempre pulito all'interno, che è molto importante. Sì, lo guardo pure com'è, non ho mai demontato la verità, però bisogna anche iniziare a fare già qualcosa. E come ti la macchina, se tu lì in mezzo ti canti di tagliante, gli inciampi la cinghia chi si chilometro, tutto quanto ti dura, una vita ti dura. Giusto, quando li fai poche cose che insomma, li utilizzini, olio e quant'altro, e vedi a campo a 50 anni. Ma dice che c'è gente che le macchine... Li tiene anni e tu giri il motore a chi so di guidi, se tu le di 20.000 km a 20.000 anche prima te la portano, e tu sono di, ci sono molte persone che sono alla lettera, ma le macchine gli durano una vita. Guarda, loro quando ti danno i tagliandi a 20.000, 30.000, perché tanto ormai le macchine sono così, no, sono tutte balle, tutti cazzati. Cioè, se tu vuoi una cosa di dura, l'olio lo cambi prima, olio e filtri, e la macchina non muore più. io conosco una persona che è così. Piglia e lo cambia molto, molto prima di come dice la fabbrica. Ma quando intendi che c'è un motore, grazie a un orologio svizzero, è di chi di proprio compreso. E le fa tutto, le fa. Una cosa vale, trave, la vate, boh. È sempre perfetta a me. Sì, sì, sì, non ve ne sciogli, tu quando vedi moto, macchina, vacca, chi tu è? Fai gli tagliandi giusti, li fai giusti, non lo sollecitare più di tanto il motore e ti dura una vita. Quando questo tu non lo fai, purtroppo devi ritravagliare, fa campatti la macchina, fa campatti la moto o chi tu che fai? Allora, la cazzata, non prende 20, cioè non prende 50 euro, 100 euro, ma fa un tagliando. E da voi cazzo che ne prende 2 miglia. Però con una bacchia di ragazzi, no, a ragione c'ho 80 di così a chiudi. Ah, io la macchina mia non gli ho mai fatto nulla. Come sta pure sta pignata da voi quando faccio i motori però? Quando facendo tutto la bella in culo. Certo, è l'errore che fanno tutti. No, che cosa non è fatti bello così. Tu prendi una macchina pagando malattia, però il cambio dell'olio, tu fai il cambio dell'olio giusto, giusto cambio dell'olio e filtri, e guarda per quanti anni ti dura, anni, parliamo di anni, anni senza contare il chilometraggio. Quando questo non succede, gli anni diminuiscono, il chilometraggio anda che invece di arrivare un ipotesi di 300-400 mila a 200 mila o prima buco, comincia a bruciare, osano, pagino, andano, tornano, pagino. Diventa tutto quanto un problema. Io lo so, Guglia. Diventa un problema sì, perché poi no, non andava bene. Non andava bene la cosa. Però se tu andi e dici, come c'è tutte le cose, insomma, che parli di manutenzione, la gente non ne vuole fare, guarda, non... Tu quando gli dici, no, ma non è così, allora vabbè, devi piangere. Sì, anche non la giovesse pure come dici un niente, da resciasso. Cioè, invece preferisco prendersi la contravvenzione che ciambare cose. Anche le gomme, lo vedi le gomme? No, le gomme tutti i cantini, nella gomma è tutta canta uguali, piglia chiscia, chi dura cartellata, no, non è più nulla. Spendi 10 euro in più a gomma, mi guardo, perché intanto non penso che sia difficile, cioè, la compri buona, è molto più affidabile e ti dura molto di più di quelle di queste gomme che sono tutti canti sotto macchina, che va, prima di macchina di 3-4 euro, ah va, queste macchine sono scendere sotto terra, Il problema che c'è la sottomarca buona, che è veramente una gomma buona e va bene, però va bisogno pure di questi gommi cinesi che s'aprono in due burro. Sì, però vedi ragazzi, andate a dirti quando tende un gommista, a me qua adesso ti faccio risparmiare, mettiamo questa che cosa gli dice meno, subito, mettila, mettila. Come la gente sulla fadì, che hanno in bocca queste gomme, hanno in bocca, tutto se c'è una persona seria, il gommista non dovrebbe neanche farle queste cose. Hanno in bocca queste gomme, da pure 3 mesi, cazzo, sono uscito da buscicate, tutti quanti, cioè una peggio dell'altra. C'è una, c'è anche aperta, sì. Però lì il gommista, una persona seria, non te deve neanche consigliare, perché io sono del parere che se tu mi dici la macchina la tengo un mese, 2 mesi, e poi la devo rottamare, oppure la giro via, insomma, chi tu chi è, ci può anche stare, capito? Perché al momento uno non dispone. Quindi anda pure qua, piglia una gomma a dritti, la piglia a buona, ti vediamo. Ma se tu la macchina la tengo, che ci devi camminare, ci fai dei chilometri, e ci sono i cristiani seduti dentro, la gomma vuole buona. Forse è buona, io la verità, gomma del genere non ne avrei manco venduto. Proprio, io se me ne ero che te la gomma. Cosa da voi te la biglietti, ma da voi fare un coraggio di biglietti da con te come. Cioè. Quindi per non avere storia, per non avere cose, io te lo comodo da voi e paghi, chi so che me la paga, da voi non me la futti nulla. lo vuoi fare, chi tu vuoi fare di spa, vai da quello, se ti si barra la gomma, non mi dica a me. Esatto, però se tu accorci un po' pure le passioni, soprattutto un gommista e no, ma questo di gomma è aperto, sono bene, e ci peso 200 euro, 300 euro di costo, se no macchine di una certa importanza, e io mi avvedo, mi dico, ma vedi che ci gomito, no, ma tu mi ha detto, me l'hai garantito, beh, ci mancherebbe altro, perché se tu vai al PC vendolo e gli dici se il pesce è fresco, sicuramente ti dirà di sì, perché dice che è un pesce che va anche da ubrizzano, e così è la gomma, la stessa cosa, che devi dire, chi ti deve commercio, insomma, no, dici no, sì, è buona, ma non è così, la gomma vuole buona, la gomma tu la metti buona e sta tranquillo che drommi, la beta no, se ne giusto di più. E poi capitato di canciambare gomme nella macchina di babbo, dove sono andato, mi ha detto inutile che io ti do una gomma che la baghi di manco, e dopo ti ci scioglie, me ne hai noghe, mi fa le storie, ha detto a me, io ho la prima scelta, la seconda scelta, boh, non mi chiedere altro, te la do buona e basta, non mi devi toccare i noghi, giustamente. Sì, perfetto, ma ci mancherebbe altro, io sono bravissimo, sono più che d'accordo, buona, ne metti una buona e basta, uno dice non le posso montare quattro, le pongo due e due, le pongo una voce, le pongo un'altra voce, però vado sul sicuro. Lo siamo fatto, prima due, da buona che dava se due. No, mi ha dato gommimone, non mi ha dato Buccaria, no. E aspetta che avanti buone che si dice noi, che su guastarci sicuramente non sa cosa cazzo va, no? Adesso metteranno le gomme estive e le gomme invernali, capito? Non va, non andranno più bene, quindi cazzo ti dice va, due tre di gomme all'anno, ma dimmi tu che cazzo di quella cazzo la niente, vai da cosa cazzo, su cazzo ti sei inventato. Ma non hai cosa da fa, cioè invece di creare luoghi di travaglio sono pensati come ti va Bucattini, i servizi che ti rimangono in buccia a casa. Ma le quattro stagioni esistono però, Sì, ma dicono che non vanno bene, perché se approvano quella legge lì, che forse l'hanno già messa, devi mettere d'estate metti la gomma estiva e d'inverno ci vuole la gomma invernale. E cazzo, hai quindi di là? Sì, io di dare, vai quindi di là, ecco. Usè già esce un conto. Cazzo, chi ne ha cazzo una niente, porca miseria, ma cosa capo di una puttana, non è che stai guidando un aereo? Ma cosa, sono tutti mancanti, sono la gabellina. Non è bigliato che cazzo arrecciati tutti canti, forse non è in carriera. Beh signori, che mi gioco la Bio Candy, Anzu, ci sentiamo domani. Ciao anche Antonello, alla prossima. Se ci siete domani sera ci facciamo altre due chiacchiere, dai. Come si dice? Non è nulla, mi gioco drummendi, non mi voglio abbandonare così, dai. Ciao, buonanotte. Cappa, ciao, buonanotte Lucia, risentiamo al prossimo, avanti Antonio. Ehi, ciao Luca, ciao, buonanotte, dai, se c'è ci sentiamo domani, ciao. Ci siamo, pure io chiudo, cavate, poi andate a mandare un me, che domani è pesante, ok, ciao Antonio, ciao, risentiamo al prossimo, ciao, buonanotte. Ehi, ciao a tutti, ci sentiamo alle prossime, dai, ciao, buonanotte.